uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili, ascoltate quello che sto per annunziarvi. La Sacra Scrittura, che è la parola di Dio, afferma in primo Giovanni quanto segue nella prima epistola di Giovanni, al capitolo 4, al versetto 14, così dice l'Apostolo Giovanni, uno dei 12 apostoli del nostro Signore Gesù Cristo, dice: noi abbiamo veduto e testimoniamo che il Padre ha mandato il Figliolo per essere il Salvatore del mondo. Dunque abbiamo la testimonianza degli apostoli, i quali appunto dicono che il Dio Padre, che è il solo vero Dio, nella pienezza dei tempi ha mandato nel mondo il suo unigenito Figliolo, il cui nome è Gesù Cristo, per essere il Salvatore del mondo, ossia per salvare i peccatori. Questa è la ragione per cui Gesù Cristo, il Figlio di Dio, è venuto nel mondo, per salvare i peccatori. Ora, chi sono i peccatori? Sono appunto gli uomini che peccano e sono schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Lo ribadisco, chi commette il peccato è schiavo del peccato. Il peccatore non è un uomo libero, è un uomo schiavo del peccato. Il peccato lo signoreggia, ecco perché lui sente questa forte inclinazione al male, a peccare, perché è schiavo del peccato, è un prigioniero. E tutti hanno peccato, tutti hanno peccato. Quindi Gesù Cristo è venuto nel mondo per ordine del Dio e Padre suo, per affrancare gli uomini peccatori dal peccato che li signoreggia. Ed era indispensabile che lui venisse. Perché? Perché lui con il suo sacrificio ha annullato il peccato. Quale sacrificio? Quello che egli compì morendo sulla croce per i nostri peccati, secondo le scritture, cioè affinché si adempissero le scritture. Egli diede se stesso in offerta e sacrificio a Dio per le nostre offese, per le nostre colpe, per i nostri peccati. Ecco perché Gesù Cristo fu ucciso dai giudei, sì, perché furono i giudei a ucciderlo, dandolo in mano a Ponzio Pilato, il governatore della Giudea di allora, e chiedendogli con insistenti grida di crocifiggere Gesù il Cristo. Dunque la morte di Gesù fu una morte espiatoria. Espiatoria perché egli si caricò, lui che era l'agnello di Dio, senza macchia, senza difetto, perché lui non peccò mai, non conobbe peccato, fu tentato in ogni cosa, però senza peccare, lui si caricò dei nostri peccati, li ha portati nel suo corpo sul legno della croce. E appunto mediante il suo sacrificio avvenuto una volta per sempre, egli ha annullato il peccato. Dunque, dopo essere, diciamo, morto, perché Gesù spirò sulla croce, egli fu seppellito, ma il Dio lo risuscitò dai morti il terzo giorno secondo le scritture. E poi fece sì che egli apparisse ai testimoni che erano stati innanzi scelti da Dio. Ebbene, questa opera che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ha compiuto, l'ha compiuto appunto per liberare, affrancare il peccatore dai suoi peccati. Ora, è evidente che avendo compiuto Gesù Cristo l'opera di redenzione, la salvezza non è per opere, ma è per grazia, perché si fonda sul sacrificio di Gesù Cristo. Sì, la salvezza che vi annuncio nel nome del Signore è per grazia, è gratuita. L'uomo, per essere salvato, infatti, deve credere nel Signore Gesù Cristo. Questo è quello che deve fare, perché la salvezza, appunto, viene donata da Dio a coloro che credono. Che credono dunque che Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e che apparve ai testimoni che erano stati innanzi scelti a Dio. Ecco, credendo in questa parola, che è la parola della buona novella, l'uomo viene salvato. Salvato, affrancato dal peccato. Non solo. L'uomo viene giustificato, quindi reso giusto, per il sangue prezioso di Gesù Cristo. L'uomo viene riconciliato con Dio per mezzo di Gesù Cristo. Ottiene la remissione dei peccati, credendo nell'Evangelo, mediante il nome del Signore Gesù Cristo. E ottiene la vita eterna, sì, pure la vita eterna, ottiene credendo in Gesù Cristo, la vita eterna. Sì, perché la vita eterna è il dono di Dio, non è una paga, non è un premio, non è qualcosa di cui ci si può appropriare per un pezzo alla volta, come dicono i bugiardi, pregando, facendo elemosine, digiunando, nella maniera più assoluta. La vita eterna è il dono di Dio in Cristo Gesù. E quindi vi annunzio veramente la buona novella che Gesù di Nazaret è il Cristo, l'unto del quale parlarono ab antico i profeti e appunto che doveva morire e risuscitare. E in lui si sono adempiute le scritture profetiche, per cui ora chi crede in lui, che è il Salvatore del mondo, viene salvato, giustificato, perdonato, riconciliato con Dio ed ottiene la vita eterna, scampando così al fuoco dell'inferno. Sì, perché esiste un luogo di tormento dove c'è il fuoco, questo luogo di tormento è l'inferno. L'inferno, un luogo inferiore, un luogo di sotto, dove vanno le anime di coloro che muoiono nei loro peccati. Ora, voi siete sotto il peccato, voi che siete senza Cristo, senza Dio, siete sotto il peccato. Se moriste in questo preciso momento, andreste all'inferno. Ma badate bene, credendo nell'Evangelo sarete salvati. Credete dunque in colui che è il Salvatore del mondo e Dio avrà misericordia di voi salvandovi, strappandovi dal fuoco dove siete diretti. Fatelo, fatelo, vi scongiuro a farlo perché la vita è breve, molto breve e può finire in qualsiasi momento. Tu non sai. Tu non conosci il giorno della tua morte, eh? Potrebbe essere anche questa notte stessa, eh? Tu vai a letto per l'ultima volta, potresti andare a letto per l'ultima volta, chiuderesti questi occhi e non li riapriresti più. E dove ti ritroveresti tu, peccatore? All'inferno, all'inferno, capisci? In mezzo al fuoco, nel tormento, quindi per quello, o uomo peccatore, ti scongiuro a ravvederti. Quindi ad abbandonare i tuoi pensieri iniqui e vani, a cambiare modo di pensare e a credere in colui che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo, in Gesù Cristo, colui che è, che era e che viene. Quindi bada te stesso, non ti vantare del domani, perché non sai quello che un giorno possa produrre. Oggi è il giorno della salvezza, questo è il tempo accettevole. Peccatore, ravvediti e credi nella buona novella che ti ho annunciato, che Gesù di Nazareth è il Cristo e Dio avrà misericordia di te, altrimenti quello che ti aspetta è un orribile fine. È un orribile fine, te ne andrai all'inferno quando morirai e poi in quel giorno risusciterai in risurrezione di condanna per essere giudicato e gettato in un altro luogo di tormento, che è lo stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarai tormentato nei secoli dei secoli. Quindi, tu che sei sotto il peccato, signoreggiato dal peccato, sappi che Cristo Gesù è il Figlio di Dio, che il Padre ha mandato nel mondo per essere il Salvatore del mondo. Credi in Lui e sarai salvato per la sua grazia. Ti arrecchi da udire.